Moi, Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, operativo per il soundcheck di oggi. Addirittura, mio caro Francesco Tromba, siamo approdati all'appuntamento numero 223. Sì, siamo ancora più vecchi giorno dopo giorno. Ma sempre giovani musicalmente parlando. Eh sì, questo sempre, sempre curiosi. Sempre curiosi. Ieri abbiamo dedicato l'intera puntata alla fusion, ascoltando i grandi maestri del genere, quei formidabili musicisti, alcuni ancora in attività, che hanno unito, hanno creato un ponte fra le strutture jazz, la passione per il blues e le sonorità invece più vicine nel rock. Quindi vi stiamo parlando proprio della metà degli anni 60, primi anni 70. Ne abbiamo ascoltati diversi di grandi maestri, partendo da Miles Davis, che è stato fra i musicisti della sua generazione uno dei primi a sentirsi vicino anche ai primordi dell'hip hop. Sì, è un vero e proprio melting pot musicale che cercava anche di non escludere nessuna sonorità. C'erano anche delle sonorità molto più etniche, world, delle altre sonorità hip hop, R&B, rock, qualsiasi cosa, diciamo, si poteva rintracciare nel suono di quei tempi, nella fusion di quei tempi. Certo, e poi gli insegnamenti di Miles Davis hanno stimolato la creatività anche di Herbie Hancock, di George Duke e di tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato ieri. Oggi invece, in questa prima parte del nostro soundcheck, direi di affrontare invece artisti contemporanei che hanno seguito quegli insegnamenti. Sì, quindi i figli dei figli di Miles Davis. Esatto, bravi, i nipoti. Sì. I nipoti. E tra l'altro mi sembra anche importante fare questo tipo di percorso, perché oggi i musicisti contemporanei, i più giovani, conoscendo questo tipo di sonorità, poi possono intraprendere un percorso a ritroso per scoprire le radici del sound di oggi. Sì, io personalmente ho fatto il percorso opposto, ho utilizzato un percorso più che altro temporale, quindi sono partito dai primordi del jazz, quindi dal blues, e poi sono arrivato alla contemporaneità, possiamo dire. Allora, io direi di dare il via alla puntata, una puntata durante la quale vi segnaleremo anche i festival importanti che ci saranno nei prossimi mesi nel nostro paese. Sì, perché è iniziata la stagione primavera-estate, non con i saldi, perché ho notato che alcuni prezzi sono importanti. Quindi vogliamo annunciare subito i festival estivi in Italia e all'estero, per dare la possibilità soprattutto ai più giovani di fare economia, risparmiare dei soldi e quindi organizzare le proprie vacanze in funzione dei concerti e della musica. Sì, anche perché penso che pure io farò così, vedrò di puntare su determinati concerti, anche perché non posso permettermeli tutti, perché alcuni sono veramente certo costosi, anche per arrivare nelle location ci vuole un po'. È vero. Allora, diamo il via alla puntata. Ieri sera abbiamo chiuso accennando a un artista contemporaneo che quindi ha seguito gli insegnamenti di Herbie Hancock, Miles Davis e tutti gli altri, e quindi il nostro amato Robert Glasper, ecco. Sì, sempre lui. Sì, con i suoi ultimi lavori comunque ha rappresentato un punto di fusion contemporanea e moderna. Infatti Black Radio e Black Radio 2 rappresentano la connessione fra diversi mondi, quello dell'hip hop, dell'R&B, del jazz, anche un po' di blues, un po' di sonorità elettroniche, trip hop, quindi un moderno Herbie Hancock, un moderno Miles Davis. Assolutamente. Eccolo qui Robert Glasper con gli Experiment, con un brano che troverete soltanto nella versione deluxe di Black Radio 2. Si intitola Big Girl Body, scritto con Eric Robertson, che partecipa qui come guest di Robert Glasper al soundcheck di Radio 24. We'll be right back. suono ormai inconfondibile di Robert Glasper con i suoi experiment con due album, Black Radio 1 e Black Radio 2, ha beccato due Grammy Award. Ecco, il primo come miglior album R&B di due anni fa e poi quest'anno ha preso un altro bellissimo Grammy Award per la performance insieme a Lala Hathaway nella versione di Jesus Children di Stevie Wonder. Continuiamo a parlare di fusion, ma di fusion contemporanea, e fra i grandi maestri, ma ormai possiamo considerarlo un veterano, il bassista polistrumentista Marcus Miller, che tra l'altro stimolò anche Miles Davis nella creazione di un album importante come Tutu. Sì, negli anni, erano i primi anni 90. Primi anni 90. Allora, credo che poi Marcus Miller sarà in Italia prestissimo. Sì, sarà in Italia martedì 31 all'Auditorium Ma Parco della Musica. Adesso? Sì, adesso la prossima settimana. Prossima settimana, porca miseria. E una sola data? No, c'è anche una data l'1 al Gran Teatro Geox di Padova. Mm-hmm. È il 2 di aprile ai Magazzini Generali di Milano. Quindi tre bei concerti per Marcus Miller Band da non perdere in Italia. Eccolo qui, Marcus Miller con un classico della fusion, anzi vorrei essere più preciso, fusion jazz rock, un brano scritto da Billy Cobham, un brano suonato da tutti i musicisti della nuova generazione. Si intitola Red Baron per Marcus Miller al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Questo è un altro esempio di fusion contemporanea, quella realizzata dai bravissimi Native Dancer Band inglese con la partecipazione di Frida Mariama come vocalist, brano intitolato Love, tratto dall'ultimo recentissimo EP, credo poi il primo dei Native Dancer, perché è una band neonata che abbiamo presentato noi qui al Soundcheck due settimane fa. Sì, e loro sono ancora più fusion, se possibile, di Robert Glasper, veramente nelle loro sonorità si rintraccia qualsiasi cosa. È vero, perché cosa. Robert Glasper comunque porta con sé tutto il background tipicamente black, invece Native Dancer spaziano, come avrete sentito nelle sonorità, anche su situazioni jungle, trip hop e molta elettronica. Sì, è molto futuristico come sound. E a me non dispiace, anzi vorrei trovare un bel promoter italiano per portare in Italia la prossima estate questa incredibile band di talenti inglesi. Eh sì, se lo meriterebbero io sarei in prima fila al concerto. Allora, sì, noi molta musica l'abbiamo scoperto, lo ripetiamo, su portali come Bandcamp e SoundCloud, ma ci sono delle notizie che riguardano Bandcamp. Sì, c'è una notizia, un'ottima notizia, perché grazie a Bandcamp c'è la possibilità appunto di dare, di finanziare direttamente le band di cui si è appassionati. In questi anni, dalla nascita di Bandcamp nel 2007, i fan hanno dato più di 100 milioni di dollari alle band praticamente direttamente, quindi acquistando il loro materiale. Sì, e tra l'altro dal 2013, in cui si era raggiunti 50 milioni di dollari, l'obiettivo di Bandcamp era quello di raddoppiarlo nel giro di 18 mesi, però ci sono riusciti nel giro di 16 mesi, quindi è un modo di finanziarsi per le band che sta andando veramente tantissimo, soprattutto a livello internazionale. Sì, lo abbiamo spiegato anche quando è stato nostro ospite un esperto di marketing come Luigi Calivà, che per le band più giovani è quasi un approccio immediato quello di pubblicare su Bandcamp o SoundCloud la loro musica, piuttosto che aspettare il contratto discografico ufficiale di una multinazionale o di un'etichetta ufficiale. Tra l'altro può essere anche magari un modo di gestire i propri diritti d'autore in maniera direttamente, diversa. Direttamente, sì, esatto. È vero. E c'è un'altra band che sta per partire in tournée, ma un tour internazionale che li porterà negli Stati Uniti, ed è una cosa importante per una band che poi è nata e cresciuta in Australia. Torniamo quindi a parlarvi di Hiatus Keyote, band guidata dalla vocalist Napalm, che dopo il primo EP, dopo il secondo EP, sono pronti per la pubblicazione di un album che si intitolerà, e credo la pubblicazione è imminente, forse è già venuta lì in Australia o negli Stati Uniti, l'album si chiamerà Choose Your Weapon, scegli la tua arma. Sì, ufficialmente dovrebbe uscire a maggio, in realtà già alcuni brani sono stati rilasciati tramite l'EP By Fire, o anche su SoundCloud si inizia a trovare qualche piccola anteprima, come ad esempio Breathing Underwater. È come poi abbiamo fatto noi, esatto, perché noi lo presentiamo in anteprima, Breathing Underwater, Respirando Sott'acqua. Questo è il titolo del nuovo singolo di Hiatus Keyote al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Dagli appassionati di musica del soundcheck, Jacob Collier, questo giovane inglese ventenne polistrumentista che realizza i suoi brani lì nella sua stanzetta a Londra, ma che sta lavorando sul suo concerto e anche sulla pubblicazione del nuovo album. Attendiamo notizie direttamente da Jacob Collier, che qui ancora una volta abbiamo apprezzato a grande richiesta in questa sua versione di Close to You, brano celebre del repertorio di Burt Bacharach. Ci sono dei concerti in arrivo in Italia e quindi diamo fiato agli squilli di tromba. Sì, allora iniziamo con i festival. Ad esempio Umbria Jazz, già ci sono diverse date, come ad esempio si parte il 10 di luglio con Paolo Conte, si continua il 12 con Paolo Fresu Brass Band, Stefano Bollani la stessa sera. Figurati, non manca mai Bollani. Sì. Poi Bad Plus insieme a Joshua Redman, io l'ho già visti un po' di anni fa, assolutamente da non perdere. Un quartetto che merita. Insieme agli Snarky Puppy, sempre la stessa sera. Nella stessa sera, quindi sì, all'Arena di Santa Giuliana. Esatto. Concertone da non perdere. Quello potrebbe essere uno dei candidati i soldi che andrò a spendere sicuramente. Poi Ciccoria insieme a Herbie Hancock, esclusiva in Italia. Un duetto, sì, due pianoforti bellissimi per Herbie Hancock e Ciccoria. Il 14 di luglio. E un'altra esclusiva per Umbria Jazz saranno Tony Bennett insieme a Lady Gaga, il 15 di luglio. Lì preparatevi perché è una bella mazzata dal punto di vista economico. Praticamente una serata di gala. Cassandra Wilson ci sarà anche il 16 di luglio e infine Caetano Veloso insieme a Gilberto Gil il 17 di luglio. Per il momento queste sono le date del Hanno chiamato Umbria Jazz Fat Freddy's Drop? No. Però li ho scoperti dove suoneranno in Europa, un po' di giri in Austria, però forse il festival più interessante da andare a vedere è il Sonar di Barcellona, dove ci saranno tantissimi artisti, ve lo consiglio assolutamente, loro se non sbaglio è agli inizi di luglio il festival. Quindi che facciamo? Andiamo prima in Spagna e poi ci spostiamo in Umbria? Sì, potremmo dai, fare facciamo così. Fat Freddy's Drop al soundcheck con Big BW. Soundcheck, il suono della musica. E siamo approdati alla stagione primavera-estate dei concerti, quindi abbiamo già annunciato un festival importante come Umbria Jazz a luglio, ma fra qualche settimana a Bari ci sarà il via per il primo BAM Festival, ovvero Black American Music, questo l'acronimo coniato da Nicholas Payton, trombettista della nuova generazione, per descrivere il nuovo movimento culturale e sociale intorno alla Black Music di oggi. E il giornalista Nicola Gaeta, che già l'anno scorso venne a parlarci di questo movimento culturale dopo aver scritto un libro che sta andando anche molto bene, ha pensato bene di organizzare un festival con altri appassionati del genere, coinvolgendo i musicisti che in questo momento a New York stanno portando avanti questo movimento culturale. Quindi quando ci sarà il BAM Festival a Bari? Dal 16 al 18 di aprile all'Auditorium Showville. E chi interverrà? Ci saranno Gary Bartz, Nicholas Payton. Eccolo, allora viene proprio lui in persona. Sì, proprio lui. Johnny O'Neill, Sol Robin Zeptet, Orin Evans, Fabio Morgera. Anche. Fabio Morgera, sì. Ci saranno anche musicista, trombettista toscano-fiorentino che però per anni ha militato lì a New York ed è anche un punto di riferimento sul genere. Allora, mio caro Francesco, quindi questo è il BAM Festival di Bari. Puoi ripetere il periodo? Dal 16 al 18 di aprile. Allora, dobbiamo fare una cosa, prendere una nota e invitare Nicola Gaeta per venire a presentare il festival e raccontarci che cosa è successo con il movimento BAM lì a New York nell'ultimo periodo. Bene, passiamo alla musica. Abbiamo detto che a Umbria Jazz torneranno gli Snarky Puppy, che qui ascoltiamo con una delle nostre amate vocalist del momento, ovvero Shaina Steele, da Family Dinner, dal vivo Snarky Puppy in Gone Under. Siamo in chiusura, mio caro Francesco, termina l'appuntamento del soundcheck, abbiamo ancora una manciata di minuti per ascoltare un altro campione di fusion contemporanea, qui il pianista Bill Lawrence, anche lui reduce dalle lunghe tournée degli Snarky Puppy, mette insieme vari elementi, le strutture jazz, l'improvvisazione, qualcosa di elettronico, ma anche il suo background che arriva dagli studi classici, viene fuori in questo album intitolato Flint, che troverete anche su iTunes. Sai che anche lui è molto attivo su Bandcamp, anche gli Snarky Puppy, trovi praticamente quasi tutta la discografia. Non solo trovi la discografia, ma su YouTube trovi tutta la discografia in formato video, perché hanno capito bene che l'immagine è importante e quindi registrano anche audio video tutto quello che fanno. Sì, è una band molto fresca e moderna, possiamo dire. Bravo! Allora Francesco, chiudiamo questa prima parte, ci risentiamo alle 19:15 con alcune novità che arrivano dal mondo del jazz internazionale e nazionale. Quindi a tutti voi buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Pronti per dare il via alla seconda parte della nostra prova del suono qui su Radio 24. Buonasera a tutti da Gigi Telesforo e buonasera al nostro Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Contento per aver realizzato due numeri del nostro soundcheck dedicati alla Fusion Music. Ieri abbiamo raccontato le vicende dei grandi maestri approfittando della presenza del maestro Franco Michalizzi che ci ha presentato il suo nuovo album. Quindi abbiamo parlato di Miles Davis, George Duke, Herbie Hancock, abbiamo raccontato qualcosa di Frank Zappa, abbiamo ascoltato i Breaker Brothers e i Weather Report. Questa mattina invece ci siamo dedicati alla fusion contemporanea con Robert Glasper, Hiatus Keyote, Native Dancer e tutti gli altri. Ma veniamo all'appuntamento di questa sera. Perché sì, parliamo sempre di fusion in qualche modo. Però no? Nel settore più jazz. Più jazz. Facciamo un salto alla metà degli anni 50, quando un signore chiamato Dizzy Gillespie iniziò, dopo una bellissima esperienza fatta a Cuba, a portare in giro arrangiamenti per big band dedicati alle ritmiche afro-cubane. Quindi proprio l'afro-cuban jazz. Sì, c'è un personaggio che in realtà è abbastanza dimenticato sui libri, anche sui libri di storia, possiamo dire, del jazz, perché non viene spesso citato. Ma ricordato con passione anche da Dizzy Gillespie, Charlie Parker e anche da un musicista di oggi come Arturo O'Farrell, che guida un'afro-cuban band contemporanea, e l'artista in questione si chiama Macito Maestro Conghero, che oggi viene ricordato con la pubblicazione di un doppio CD, ovvero Kinia con il sax contralto in evidenza di Julian Conobal Adderley, e poi un'altra pubblicazione intitolata Macito and His Afro-Cuban Jazz Ensemble with Flute to Boot con il flautista Herbie Mann. Album bellissimo, una pietra miliare del genere che assolutamente va ascoltato con attenzione. Sì, è un pezzo di storia alla fine, perché Macito è stato un pezzo di storia del jazz, uno dei primi ad importare la clave latina a New York, tanto che una piazza ad Harlem, il quartiere in cui resideva, nella parte est di Harlem, è stata rinominata Macito Square in suo onore. E allora anche noi celebriamo l'arte e il talento di Macito. 1957 con Julian Conobal Adderley, il brano si intitola Conversation. Suono potentissimo della big band guidata nel 1957 dal maestro Conghero Macito, con la partecipazione di Julian Conobal Adderley, in questa seconda parte del soundcheck di Radio 24. E fra i grandi maestri dell'Afro-Cuban style, naturalmente lo abbiamo detto, c'era anche il trombettista Dizzy Gillespie, uno degli eroi del bebop, anche lui un musicista curioso che negli anni 50 proprio arrangiava per la sua big band sonorità tipicamente cubane. E oggi Dizzy Gillespie lo ricordiamo con un'altra performance dal vivo del 1961 al Monterey Jazz Festival con il suo quintetto, soltanto che qui, mio caro Francesco, invece di proporci qualcosa del repertorio afro-cubano, ci propone qualcosa del repertorio classico brasiliano, della bossa nova di quel periodo, un brano di Antonio Carlos Jobim intitolato Desafinado, che Dizzy Gillespie introduce con la vena umoristica musica che lo ha contraddistinto nell'arco della sua carriera. Dizzy Gillespie alla tromba, Leo Wright al sax contralto e al flauto, Lalo Schifrin al pianoforte, Bob Cunningham al contrabbasso, Chuck Lampkin alla batteria, Joe Carroll come vocalist, ma soltanto in un paio di brani. L'album si intitola Dizzy Gillespie Quintet e Musical Safari. Interessante. Sì, Dizzy Gillespie è stato uno dei musicisti più trasversali all'interno del jazz. Del movimento bebop, sì. Sì, in generale. Ha portato delle sonorità un po' più world che magari non erano considerate inizialmente. Eh beh, un brano fra tutti è Night in Tunisia, basta, no? Basta quello. Bene, ma qui lo sentiamo in Desafinado, ma soprattutto ascoltiamo la presentazione di Dizzy Gillespie. We thank you very much, ladies and gentlemen, for that wonderful reception. And now before we begin, we'd like to introduce the musicians in the band. On piano, ladies and gentlemen, from Argentina, the very Lalo Schifrin. On alto saxon flute, a native of San Francisco, Leo Wright. On bass and through the courtesy of Lawrence Welk, Bob Cunningham. On drums from Havana, Mississippi, Chuck Lampkin. As you would see in the program, we are doing a musical, an alleged musical safari. And this alludes to the different music that has come from Africa into the different countries. First, we'd like to play a number that we picked, that we stole in Brazil. And this one is titled Desafinado. Soundcheck, il suono della musica. Songbook dei fratelli Gershwin, George and Ira Gershwin, Our Love is Here to Stay, per la voce della indimenticabile Dinah Washington, da un album, anche questo, che viene ripubblicato, intitolato In the Land of Hi-Fi, ovvero una delle prime registrazioni in Hi-Fi, in alta fedeltà, per Dinah Washington, con anche lei, Julian Conobal Adderley come special guest di questa strepitosa registrazione. Dinah Washington, cantante di blues, ma che poi nell'arco della sua gloriosa carriera ha cantato di tutto, arrivando fino a dar vita delle interpretazioni dei primordi dell'R&B, mio caro Francesco. Sì, purtroppo scomparsa troppo presto perché poteva dare un contributo ancora più importante. Beh, ma Dinah Washington ne ha fatte di tutti i colori, no? Sì. Era una bella donna, ha avuto tanti mariti, ha amato molti uomini di tutte le età, ha bevuto tantissimo alcol, fumato tutto quello che poteva fumare, e per restare magra e bella prendeva anche un sacco di pilloloni. Purtroppo però se l'è andata a cercare sì. Dinah Washington. Bene, ma da Dinah Washington, con tutti i suoi vizi, passiamo invece a una ragazza, casa e chiesa. Non proprio. Dai, me lo posso permettere, sto scherzando perché vi sto parlando di un'amica della bravissima vocalist Alice Ricciardi, che dopo aver ottenuto vari consensi con la pubblicazione di un album per la Blue Note, approda alla Inner Circle Music di Greg Osby per realizzare Optics, questo è il titolo del nuovo album, realizzato con i bravissimi Pietro Lusso al pianoforte, Enrico Bracco alla chitarra, che poi è un eccellente compositore, Dario De Ida al basso elettrico e Marco Valeri alla batteria. Sì, dopo aver iniziato gli studi a Milano con il maestro Enrico Intra e Franco Cerri, ha vinto il secondo premio del Montreux Jazz Festival nella sezione vocale, e da lì ha pubblicato il suo primo disco, come dicevamo, che si chiama Comes Love, per la Blue Note ed EMI, quindi il suo primo disco è già stato... Sì, molto richiesta, perché ha una voce bellissima e anche una classe particolare proprio nello scandire le sillabe dei testi, sì, che interpreta. Molto elegante. Molto elegante, quindi complimenti a Alice Ricciardi per questo nuovo album intitolato Optics, e vi facciamo ascoltare proprio il brano di apertura, che ha una bella durata, quindi speriamo di riuscire a passarne un bel po'. Si intitola Deep Song. Alice Ricciardi al Soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. Ho chiamato personalmente mio caro Francesco Alfonso De Ida per fargli i complimenti per la pubblicazione di questo nuovo album intitolato Lucky Man, un album complesso, musica originale molto ben arrangiata, con Alessandro Paternesi alla batteria, Fabrizio Bosso alla tromba, anche qui suo fratello Dario De Ida al basso elettrico e contrabbasso, e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Ma il brano che vi abbiamo presentato era Just for a While, con in evidenza il pianoforte di Julian e il clarinetto basso di Alfonso De Ida, un brano che mi ha colpito moltissimo, quasi un inno nazionale, questo Just for a While dal nuovo album di Alfonso De Ida. Sì, suona anche live, quindi vi consiglio di cercare un po' le sue date, che spesso vengono annunciate all'ultimo momento perché sono musicisti di jazz, non, esatto, sono molto attenti alla comunicazione. Improvvisano. Alfonso De Ida, Lucky Man, il nuovo album per Giando Music qui al Soundcheck. Siamo in chiusura per questa seconda parte dedicata alle sonorità più jazz, e vorrei farvi ascoltare, abbiamo il tempo, sì? Sì, sì. Beh, un sì, po' di tempo. Abbiamo qualche minuto, vorrei farvi ascoltare qualcosa dal disco di questo signore chiamato Tord Gustafsson con il suo quartetto. Chi è Tord? Sai che è laureato in psicologia. No, non lo sapevo. Un laureato anche lui. Ha trovato pure il tempo per laurearsi in psicologia, questo signore. Bravissimo pianista con il suo quartetto. Qua diventa complicatissimo pronunciare i nomi dei suoi musicisti. Tore Brunborg al sax tenore, Mats Eilersen al contrabbasso, Jarle Vespestand alla batteria. Non so, non credo di aver citato questi nomi con la giusta pronuncia, ma vi stiamo parlando di un bellissimo disco per la ECM, premiata casa discografica che da sempre punta sul jazz contemporaneo. E quindi con Tord Gustafsson e il suo quartetto chiudiamo questa puntata del Soundcheck con un brano bellissimo intitolato Staying There. Sì, ci vediamo la prossima settimana, no? Ci vediamo la prossima settimana. Può essere di sì, può essere di no. Non lo so. Ci devi essere, perché abbiamo tanti argomenti da trattare qui al Soundcheck. Sì, torniamo sabato prossimo. A tutti voi buona serata, buona settimana. Sì, buona settimana a tutti. E anche buona musica. Buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba.